A bordo campo. Ospite davvero particolare oggi qui a Radio 24 a bordo campo, perché non la troviamo come d'abitudine in pedana, ma in riva al mare, in riva del suo mare marchigiano, e sentiamo già il vento che entra nel telefonino. Che perché? Perché la nostra ospite, che fra poco vi presenterò, sta preparando le Olimpiadi di Londra 2012, gli europei di Legnano che stanno ormai per partire, ma è reduce anche dalla fredda San Pietroburgo, dove ha conquistato vittorie ma anche incamerato qualche grado di troppo sotto zero. E allora, mistero svelato, benvenuta Elisa Di Francesca, la grande campionessa della nostra scherma e del nostro fioretto. Ben ritrovata Elisa. Ciao. Allora, ciao. Allora, beh, ci voleva un po' di mare dopo questa gitarella a San Pietroburgo in Coppa del Mondo. Sì, hai detto bene, là avevamo trovato un po' di freschetto, direi. E qua da ieri già mi sembra di stare ai Caraibi, nel senso che proprio c'è un caldo, una tranquillità, e oggi ho approfittato per passare la pausa pranzo al mare. Oh, quindi non è vero che l'Olimpiadi si prepara in monastero, ritiro monastico, a pensare solo a dar di cappa e spada, ogni tanto qualche tuffo si può fare. Sì, assolutamente no, per il ritiro, e poi ancora c'è tempo, come hai detto prima ci saranno gli europei, partiremo l'11 per Legnano, poi dopo dal 1 luglio fino a circa il 25 ci saranno i ritiri a Norcia preolimpici, quindi ancora c'è un po' di tempo. Quindi ancora un po' di relax. Tra l'altro il viaggio a San Pietroburgo, al di là del meteo, è stato quanto di meglio si potesse aspettare, no? Vittoria nell'individuale con un po' di tutto italiano, trionfo nella prova a squadre contro le russe, campioni di casa, che quelle russe, ricordiamolo, che ci hanno soffiato il titolo di campioni del mondo a squadre proprio a Catania. Sì, la squadra russa è sempre comunque forte, arriva sempre in fondo, batte nettamente tutte le altre squadre, tutte le altre nazioni, quindi per noi è sempre difficile come assalto, anche se come squadra tutte quante, se l'abbiamo dimostrato anche nei podi, nell'ultimo podio di San Pietroburgo, come hai detto te, tutte italiane, quindi noi individualmente siamo molto forti e alle gare a squadre non dovremmo avere problemi, salvo qualche piccola distrazione, però non dipende pienamente dalla squadra russa, perché comunque loro, gli avversari sono, quelle fanno, quelle cose fanno, quindi se noi ci impegniamo non arrivano neanche a 40 di solito. Quello sgarbo che vanno fatto a Catania penso che vi sia rimasto un po' sul gozzo, conoscendo te, conoscendo Valentina Vezzali, c'è parecchia, sì, voglia di vendicarlo, soprattutto a Londra, direi. Ce n'è parecchia, l'Olimpiade è molto più importante del Mondiale, quindi se gli abbiamo regalato il Mondiale non faremo lo stesso per l'Olimpiade. Ecco, insomma, la stagione dei saldi è finita, direi, dal punto di vista del medagliere olimpico, no? Sì, sicuramente. Appuntamento di Legnano già nel mirino, come si approccia una competizione comunque importante come gli europei, dove tra l'altro tu, se non sbaglio, difendi tra l'altro il titolo, avendo poi invece in calendario il grande appuntamento stagionale e addirittura di una carriera come Londra 2012, si riesce a modulare, diciamo, l'intensità della prestazione agonistica a così poche settimane di distanza poi da Londra? Guarda, è una cosa strana, perché io, vabbè, per me è la prima Olimpiade, quindi è il primo anno in cui mi trovo a preparare questi giochi olimpici e tutto. Non so come funziona per gli altri sport, però sicuramente è strana, per noi europei è strana, perché per esempio i giochi asiatici dovrebbero essere già stati fatti, loro molto furbi l'hanno fatti prima, perché comunque questo dovrebbe essere un periodo di preparazione, come hai detto te, anche di potenziamento, perché poi veniamo da mesi e mesi di gare tutte ravvicinate, non abbiamo tempo di potenziare i nostri muscoli, ecco, sì, facciamo le gare individuali, le gare a squadre, però il lavoro, che ne so, i pesi, la preparazione atletica è un po' trascurato in questo periodo. Però pazienza, facciamo questa gara, comunque le abbiamo fatte tutte, io personalmente non ne ho saltata una assolutamente, anche se ero stanca, anche se ho avuto un po' di problemi a fare i risultati quest'ultimo periodo, e affronterò anche questi europei, spero di riconfermarmi, perché c'è questo primo posto dell'anno scorso che comunque mi dà tanta responsabilità. Eh sì, insomma, poi in casa è sempre bene far bella figura. Dal punto di vista della preparazione, come in qualche modo già accennavi, l'appuntamento olimpico come ha cambiato le tue abitudini, visto che appunto per la prima volta salirai sulla pedana a 5 cerchi? E poi invece parliamo dell'aspetto psicologico, perché quello è altrettanto importante, ma dal punto di vista fisico hai impostato il lavoro in modo particolare, specifico? E se sì, come? Allora, io già ho iniziato in accordo con Annalisa Coltò, la mia preparatrice atletica, ho iniziato il lavoro di potenziamento, anche se poi è stato interrotto. Comunque l'ho iniziato prima di partire per San Pietroburgo, quindi diciamo fine maggio, primi di giugno, fino al primo giugno anzi. E è un lavoro di, come dicevo, di pesi, di gambe scherma, magari potenziato da, cioè faccio gli esercizi con un peso addosso, in modo che questo serva per potenziare, e poi dopo trasformo, quindi alleggerisco un po' con dei balzi, degli scatti, ecco. Io già ho iniziato e prima dell'Europeo faremo un allenamento a Selvino vicino Bergamo, e dove anche lì comunque potenzieremo, io comunque potenzio, al di là, non perché non do importanza a queste gare, però conto più sulla testa che sulle gambe, diciamo anche imballate, no? Posso avere anche le gambe imballate. Certo, però insomma, è importante mettere un po' di carburante adesso nel serbatoio. Dal punto di vista mentale, l'approccio all'Olimpiade, alla tua prima Olimpiade, immagino sia in qualche modo un'emozione particolare che devi in qualche modo imparare anche a gestire. Sì, io ho raccolto tutte le testimonianze delle Olimpiadi, no? Tutti i pareri, tutti i racconti da chiunque l'abbia fatto, sia degli altri sport, magari incontrando qualcuno a delle premiazioni, ma anche Valentina, con Giovanna Trillini, Stefano Cerioni, insomma. In continuazione faccio la domanda, tipo com'era, com'è il villaggio, com'è la cerimonia, com'è la gara, così. E quindi ecco, un po' me le immagino, però certo viverle sarà tutta un'altra cosa. Io vado lì e penso alla mia pedana, neanche alla palestra, alla mia pedana e basta. Eh sì, insomma, meglio circoscrivere il raggio d'azione, perché un'Olimpiade può anche mettere paura più delle avversarie, visto che probabilmente le primissime posizioni della tua gara, del fioretto individuale, andrai a giocartele con Valentina Vezzali, con la Errigo, con le tue compagne di nazionale, insomma. Dico la verità, comunque è sempre una bella cosa per l'Italia, quindi spero di sì, spero che arriviamo tutte quante in fondo assolutamente, e che vinca la migliore, che vinca la persona che lo vuole più di tutti, che la vuole più di tutti quella medaglia. Tra l'altro c'è anche da sfruttare un piccolo vantaggio. Prendere Maccapelli. Ma immagino che insomma, ma vi fate qualche scherzetto per allentare la tensione, oppure per creare anche qualche piccola difficoltà, oppure scese dalle pedane? No, scherzetti no, non si scherza, non c'è proprio da scherzare, guarda, davvero. Anche perché sennò Valentina vi puncica, eh? Sì, perché lei poi dopo ci mette tutte quante in riga, anche la gara squadre, comunque abbiamo questo nuovo inno che abbiamo cambiato, perché l'ultima gara l'avevamo persa a Shanghai, sempre contro la Russia in finale. Quindi c'è stato il cambio di inno, che è uno pseudo Alli Galli con delle frasi diverse da quelle della canzone vera. Beh, adesso però adesso io te lo chiedo se ce ne canti qualche nota. Inizia così: siamo l'Italia, e poi facciamo tutto il classico, i classici passi dell'Alli Galli, e finisce con una, ma c'è chi ha detto, caduta di stile, perché mostriamo il nostro lato B così per scherzare, ma ci abbiamo la divisa, quindi non è che succede niente. Beh, insomma, speriamo proprio di vederlo a Londra, perché e di sentirlo cantato quest'inno. Tra l'altro c'è da sfruttare anche il piccolo vantaggio di avere una Valentina impegnata nel ruolo di portabandiera, no? Un'emozione in più da gestire, sì, per lei, e magari voi ve la svignate un quarticello d'ora prima dalla cerimonia inaugurale. Io non so ancora, non ho deciso niente, ancora dico sempre c'è tempo, ma eccolo, siamo arrivati. Però diciamo che ho ancora un po' di giorni per pensarci, non credo di andare alla cerimonia, dico sinceramente, noi ci abbiamo la gara il giorno dopo, quindi non credo proprio. Sì, voi gareggiate immediatamente il giorno dopo e quindi è una tensione, un'emozione sicuramente difficile da gestire, oltre alla fatica fisica che c'è nell'affrontare tutta la cerimonia, mentre Valentina Vezzali nel suo ruolo farà un'apparizione flash già studiata di un'oretta per risparmiare energie. Senti, gara squadra abbiamo detto con la Russia come grande rivale, possibili outsider che possono inserirsi in questo vostro duello con le russe? Sì, la Corea che comunque la Corea e la Francia, perché la Francia rischiava una qualificazione, invece è riuscita benissimo a qualificarsi all'ultima gara di Budapest. E la squadra della Francia è molto unita, loro le ragazze sono, c'è molta complicità insomma tra di loro, quindi è una bella squadra che comunque c'è da tenere d'occhio. E allora Elisa Di Francisca, non diciamo niente verso Londra 2012, un grazie per essere stata nostra ospite anche oggi qui a Bordo Campo. Un'ultima domanda, cosa ti aspetti da questa Olimpiade al di là dei podi, delle medaglie, che quelle sappiamo quanto pesano per voi che sudate tutta una carriera per ottenerle, ma il regalo più bello che ti aspetti da Londra 2012? No, è divertimento, sì, diciamo qualche risata, ecco. Allora, speriamo di farcele tante, anche magari con qualche medaglia al collo, chissà. Sì, sì, lì si ride meglio, con quelle si ride meglio, sicuro. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Fabio Cantadori in regia, vi ricordo che potete riascoltarci sul nostro sito internet www.radio24.it dove trovate anche il blog di A Bordo Campo e scriverci alla mail abbordocampo@radio24.it. L'appuntamento come d'abitudine è per domenica prossima alle 14.30 e ogni sabato mattina in replica alle 6.30. Una buona giornata da Dario Ricci.